canto di conchiglia, sento il gioco dell'amore di Nettuno che col vento salta e fa le capriole. Potessi un giorno vedere la poesia al potere. Vivo nelle fiabe, nelle storie, a lieto fine, inseguo le parole, inciampo sulle rime. Parlo con le piante, corro con le nuvole, con gli occhi della luna vedo il mondo che verrà. Sveglio nella notte nuda, seguo il filo di una stella, camminando contro vento cerco un'isola di pace. Potessi un giorno vedere la poesia, la poesia al potere, potere alla poesia. Potessi un giorno vedere potere alla poesia, la poesia al potere. Si fa foglia nel palazzo di corallo, vedo un cielo di colori che colora la città. Potessi un giorno vedere potere alla poesia, la poesia al potere, potere alla poesia. Potessi un giorno vedere potere alla poesia, la poesia al potere. Credo nelle fate, negli spiriti del bosco, in quello che non credi, in ciò che non conosco. Ascolto il mio silenzio, sento il suono dei profumi, al sole del mattino vedo il mondo che verrà. La gioia, la speranza, la vita che stupisce, la musica ribelle, le case di Gaudì, il fuoco, la